Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bentornati a una nuova puntata di Bosco. Io sono Giuliona. E io sono Ilona. E oggi ci ritroviamo a parlare di un argomento un po' ostico che però ci ha ispirati piuttosto bene. E infatti vorremmo soprattutto farvi ascoltare musica che ha a che fare con dei modi di dire, o delle parole strane, o delle parole sconosciute, dei neologismi, che però sono entrate all'interno del nostro uso quotidiano e comune della lingua. Questa è un po' una deformazione da linguisti, infatti mea culpa e chiedo scusa, però Ilaria, la mia compagna, mi ha preso per mano e abbiamo iniziato a costruire questa favolosa puntata che dirà tante cose poco intelligenti. Ma tra l'altro è stato molto interessante e soprattutto molto difficile, perché mi sono resa conto A, di essere completamente ignorante per quanto riguarda il mio dizionario, B, è difficile comunque trovare modi di dire che poi sono entrati anche nel nostro, diciamo, appunto, vocabolario. In realtà ce ne sono tantissimi, ci sono parecchi esempi e c'è gente che ha anche fatto abbastanza scuola. Tra questi, il primo esempio è assolutamente chiaro. Esattamente, stiamo parlando di Adriano Celentano, che fa una cosa un po' strana. Dai linguisti d'oltremanica, quello che lui fa viene chiamato mongreen, perché sostanzialmente in prison collinens in ainchusol, e già pronunciarlo, insomma, mi costa una medaglia d'onore. All praticamente right. Interpreta delle parole in inglese, ma con una scrittura grafofonetica, si dice nel gergo italiana, cioè italianizza l'inglese, e questo fenomeno viene appunto chiamato mongreen, perché da una ballata del XVII secolo, appunto, che recitava "and laid him on the green", la gente cantava "and lady mon the green". Pertanto questo, appunto, fenomeno è entrato costantemente all'interno della lingua. I primi, soprattutto quelli che fanno da maestri, sono gli italiani, che italianizzano praticamente ogni cosa, persino i nomi propri. E un esempio un po' più non recente, come quello di Celentano, è "siamo i Vatussi", Vatussi con la V doppia, quando in realtà nell'originale era Vatussi con la B di bottone, con la B di bosco. E insomma, quindi vogliamo trasportarvi, insomma, in questo inizio puntata proprio con Adriano Celentano, che non mi sta troppo simpatico, però sicuramente mi fa ballare. E allora va bene, dai Giuliana, ce l'andiamo ad ascoltare. Prince and Collinens in Alciuso, all right, di Adriano Celentano. Prince and Collinens in Alciuso. You the cool maze, say one. Prince and Collinens in Alciuso, all right. Get the colonel boss dying. Chicken somebody be key to cool. Baby, sustain yet, Bill Joe. We the stay in the shoes now, I will hold Bill the scene. Then a whole rape, maybe get the colonel boss dying. When it's the same, I ain't gonna call me a steam. You never travel, never just a god, beavers and sham. I'm buying for lots of hope, hope, just getting out of cover, no time. Over the difference to stand, light your shoes, go, my man. You can trust in the match, call your brain, girls. Oh, Sunday. Let's just do what it can. because the number four was the United States. Hi, hi, my chance, let's hit the hills so go and feel the highs. Unicorn and major say one, please in combination and do so, alright. You know, it's you not feel as you can go to the door. There's people that have to like big yo. Madonna Ilaria, quanto sei degna erede di Celentano tu? Madonna, sì, ma infatti io adesso molleggio come poche cose sulla sedia perché sono pigra, non sono come Celentano palesemente. Non ho la stessa movenza di anche, capito? Alla, appunto, Celentano, alla Elvis Presley. Non ce l'ho. Ma passiamo a un altro grande della musica che tra l'altro apriamo una piccola rubrica su di lui perché abbiamo due brani suoi per il semplice fatto che è un maestro della musica italiana, se lo merita, io lo amo tantissimo, ti prego vieni a casa mia a prendere un tè, un caffè. Secondo me anche un infuso con dell'incenso, musica Kundalini, sì, Kundalini, esatto. E libri di Jodorowsky, secondo me. Esatto. Stiamo parlando di Franco Battiato, un altro che con il corpo ci sa un po' fare, perché come balla lui, insomma, quante gif girano sulla rete di lui che fa i suoi ballettini lì, no? Hai presente? Che muove un po' le gambe. Esattamente. I suoi cavolo di balletti. Io ogni volta provo sempre a farli a tempo, ma non ci riesco. No, ma si chiama maestro per un motivo. E parliamo, insomma, partiamo da un disco che secondo me è imprescindibile per probabilmente tutti gli italiani e non italiani, che è La voce del padrone. Che io non ho, regalatemelo per favore, edizione vinile, per piacere se lo trovate, datemelo, grazie. È un album del 1981 che ha un sacco di influenze musicali, dal prog alla wave al post-punk, insomma, Battiato ci mette davvero tutto, ma soprattutto i testi della voce del padrone. Dalla voce del padrone sono stati praticamente presi in esame tantissimi testi e soprattutto una massiccia rotazione musicale ha fatto sì che questi entrassero pervasivamente all'interno appunto della quotidianità di ogni italiano. E parliamo in particolare di Cuccuru Cuccu Paloma, che tra l'altro non è nemmeno una canzone di Battiato. Lui per il ritornello, che sostanzialmente è un'onomatopea che va a simulare, il cinguettio delle colombe, ecco, per il ritornello, nonché titolo, prende in esame una canzone di Thomas Mendez e ci costruisce attorno a questa onomatopea un testo ricco di riferimenti intertestuali, dal proemio dell'Iliade fino appunto a altri cantanti della musica italiana leggera come Nicola Di Bari, che dice il mondo è grigio, il mondo è blu, Milva che invece parla del mare nel cassetto, le mille bolle blu di Mina, Lady Madonna e With a Little Help from My Friends dei Beatles, nonché i Rolling Stone con Bob Dylan con appunto Like a Rolling Stone e Just Like a Woman e mille altri. Purtroppo Bob Dylan è sempre in mezzo, io non mi rassegno a doverlo sempre nominare, però è doveroso. E quindi cosa fa? Mette tutto insieme e fa un riuso citazionistico di tutta quella che era la tradizione sia letteraria, storica, ma soprattutto culturale e musicale del passato. Ed è entrato all'interno della nostra quotidianità. Quante volte chiunque canta Cuccuru Cuccu Paloma senza davvero sapere qual è il significato, ecco. Dalla mamma alla nonna fino a Giuliona. Bene, bene, bene, bene, bene. Allora io direi che possiamo tornare a ballare sulle nostre anche sbilenche e ci andiamo ad ascoltare Cucuru Cucu Cucu Cucu di Franco Battiato e poi torneremo qui sempre su Bosco. Ricordiamo che oggi è martedì 13 febbraio, domani è San Valentino, il giorno dopo la giornata dei single, il giorno dopo ancora la giornata del non ce ne frega un cazzo e questo è Franco Battiato con Cucuru Cucu Palom. Battiato con Cucuru Cucu Paloma qui con noi a Bosco su Radio Città Fucico. Niente, Franco Battiato è praticamente una di quelle persone che a cui piace fare citazioni, a cui piace giocare molto con le parole, lo sappiamo, ormai non è, diciamo, cosa nascosta. tra questi, diciamo, tra le sue opere esiste un brano che si intitola Kaliti Junku. Kaliti Junku è tratto da Apriti Sesamo del 2012, quindi comunque è uno dei suoi ultimi brani. E lui praticamente parla, io, allora, sia ben chiaro, io leggo dalla pagina di Ragusa News, ok? Quindi è, diciamo che è un sito assolutamente affidabile. E allora aspettate un attimo che non mi si... mannaggia a me! Comunque niente, praticamente lui nel testo della canzone Kaliti Junku dice praticamente Kaliti Junku canna capassa rachina. Allora vediamo se l'ho detto giusto. Praticamente che cosa significa? Abbassati Junku fino a quando passa la piena da sera a mattina, dice nella canzone, ok? Il significato di questo detto, che lui dice tibetano, siciliano, milanese, eccetera, che in realtà è siciliano e deriva appunto da un modo di dire siciliano che è gicati canna capassa rachina da sera alla mattina, ok? sì, vabbè, scusate, me la son cercata, lo ammetto. È non mettersi contro un ostacolo, ma piegarsi temporaneamente fino a quando esso non rappresenta più un pericolo. Capito? Che saggezza, sì, quanta saggezza il maestro. Sì, ma quanta saggezza siciliani, perché appunto, dicevo, non mettersi contro un ostacolo ma piegarsi temporaneamente fino a quando esso non rappresenta più un pericolo, viene praticamente trasportato attraverso la figura del giunco che si piega praticamente dalla sera alla mattina. Ed è una cosa bellissima. Assolutamente. Bellissima. Esiste anche un detto giapponese che praticamente coincide con una domanda che si fa e si dice: ti senti quercia o ti senti giunco? Perché la quercia, se non si può piegare ma si spezza, anche se è molto più resistente, il giunco invece sostanzialmente è fragile, esposta alle intemperie, flessibile, quindi è capace di piegarsi e di, insomma, travalicare le difficoltà. Quindi diciamo che, tra l'altro, vado a notare che oltre a essere presente numerose espressioni idiomatiche, che sono appunto quelle espressioni che in una lingua trasportano un certo dato culturale e che sono intraducibili, perché tradurre significherebbe tradurre anche una cultura altra ed è molto molto complesso, Battiato è sicuramente molto ispirato, interpolato e influenzato da l'esotismo in generale, perché anche questo è palesemente un esotismo. E quindi chi se non lui per aprire questa puntata, no? E tra l'altro, comunque, sai, c'è una chicca, cara la mia Giuliona. Praticamente il tema principale di questa canzone non è di Franco Battiato, ma è una passacaglia cinquecentesca, e in più c'è anche il tema invece di un'opera successiva del Settecento, se non sbaglio, se non erro, che è il tema dell'Orfeo ed Euridice, guarda caso, il giunco che si piega, l'Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck. E praticamente è un tema che poi si vanno a sovrapporre all'interno del brano. Io direi che ce lo possiamo andare ad ascoltare, Franco Battiato con Kaliti Junku. Che farò senza Euridice? Dove andrò senza il mio bene? Che farò? Dove andrò? Che farò senza il mio bene? Per aspera d'astra le asperità conducono alle stelle. Un antico detto, cinese o tibetano, forse arabo siciliano, dice così: Kaliti Junku capassa rachina. Kaliti Junku da sera a mattina. Milioni di anni luce, la legge che esprime si illumina di cielo. mindfulness, la forma è sostanza, mentre il vento mi porta improvvise allegrie. Kali ti ungu kapasa la china. Kali ti ungu da sira a mattina. Kali ti the dramatic escalation of violence. The world outside is insane. It's a full of evils. Without wasting time, we take refuge in the empty essence. Sera a mattina, Kali ti ungu. Kali ti ungu di Franco Battiato. Io sono entrata in una maniera così soft, ma il fatto è che non mi piaceva rovinare l'atmosfera che il brano ha creato, che mi è piaciuto tantissimo. A te, Giuliana? Non ti preoccupare che la rovino io adesso, tranquilla. Bene, vai. Per chiudere questa prima mezz'ora, insomma, che vi ha introdotto in questa scampagnata boschiva, abbiamo piazzato Battisti. Perché c'è una canzone che tutti conoscono per il ritornello e non per il reale titolo, che appunto raccoglie in sé una frase che è diventata proverbiale per esprimere qualcosa che sarà in divenire, e cioè lo scopriremo solo vivendo. La canzone è Con il nastro rosa, che è la B-side, insomma, del 21esimo singolo pubblicato da Battisti nel 1980. Nel lato A c'era Una giornata uggiosa, nel lato B Con il nastro rosa, e insomma, per far contente le mamme e un po' tutti, possiamo farvela ascoltare. Sostanzialmente, tra l'altro, è molto particolare perché racconta, perché la situazione che Battisti racconta in questa canzone è quella di uno che si sta per sposare e non sa se ne è convinto, perché appunto dice lo scopriremo solo vivendo, cioè io ho paura. Ora che la cosa si sta concretizzando, sento l'ansia del matrimonio. Io e te non ci conosciamo bene, perché una volta appunto si sposava, si andava a vivere insieme, si conosceva realmente la propria donna, il proprio uomo, solo nella quotidianità, e quindi sto proprio male. Lo scopriremo solo vivendo. Io sono qui, sono pronto, proviamoci. E allora non ci resta, insomma, che immedesimarci in Battisti e ascoltarci Con il nastro rosa. Thank you. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered. Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, brano conosciutissimo, brano iper sfruttato, ma sfruttato specialmente da un certo ambito della comunicazione ultimamente, perché noi cerchiamo di fare le cose auliche, cara la mia Giuliona, ma io ho voluto mettere The Sound of Silence nella nostra playlist perché è diventato forse uno dei meme più famosi al mondo mettere sotto immagini di persone tristi la frase "Hello darkness, my old friend", che è diventato tant'è che è diventato un vero e proprio modo di dire. E quindi io non potevo non mettere, perché di fatto, certo, è entrato nel nostro quotidiano, perché nel momento in cui ci sentiamo depressi, c'è una situazione che ci dà fastidio, dobbiamo studiare come dei matti, capito? La prima cosa che ci viene in mente è proprio questo jingle di "Hello darkness, my old friend". E poi esatto, poi soprattutto la forma meme, diciamo, che oggi, esatto, è così virale che davvero è talmente pervasiva. Hai fatto benissimo a inserirlo, brava Elona, tu sei una degna compagna, compagna, compagna. Compagna, compagna. Niente, quindi The Sound of Silence è praticamente appunto uscito nel 64 appunto fatto da Simon & Garfunkel. Ma Simon & Garfunkel non hanno, diciamo, solo, non ci hanno lasciato soltanto un jingle per i meme, ma hanno lasciato proprio un vero e proprio modo di dire, anche grazie al film Il Laureato, perché il prossimo brano è un brano famosissimo che si intitola Mrs. Robinson ed è appunto sempre di Simon & Garfunkel, però in questo caso ce l'ascoltiamo nella veste che, diciamo, sai, a volte capita che le cover diventino più famose dell'originale, tant'è che infatti quando nel 92 uscì la versione dei Lemonades, quella che ci andremo ad ascoltare, è diventata incredibilmente famosa. Ma perché abbiamo inserito Mrs. Robinson? Perché Mrs. Robinson praticamente diciamo, all'inizio, quando la Paul Simon la creò, aveva un ritmo leggermente più aggressivo ed era titolata a Mrs. Roosevelt, che era appunto Eleanor Roosevelt, e più tardi venne utilizzata appunto nel film Il Laureato del 67 e ne fece parte appunto della colonna sonora, ed è diventata nell'ottica di tutti quella, diciamo, la figura di Mrs. Robinson come la figura della MILF, diciamo, quando sei adolescente in un certo senso, sì, che ti si avvicina e ti fa provare le prime esperienze. Da allora è diventato esattamente, è diventato proprio un modo di dire, quando in diciamo che prima dell'acronimo MILF si utilizzava e si utilizza tuttora, dice: questa è la tua Mrs. Robinson. Mrs. Robinson è diventato proprio un modo di definire un certo tipo di personaggio all'interno della propria vita. Questo tipo di personaggio abbiamo detto che è appunto una MILF, e quindi mi interessava un pochettino vedere, diciamo, la particolarità di questo brano, come tra l'altro possa un brano entrare nell'ottica appunto, cioè possa istituire un immaginario all'interno delle persone così forte da diventare un vero e proprio modo di dire, anche slegato dalla stessa figura che viene appunto descritta all'interno del brano. Quindi io direi che ce lo possiamo andare ad ascoltare, Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel nella versione dei Lemonheads. Mrs. Robinson, Lemonades, siamo di nuovo qui su Bosco con la base che è partita a palla e mi ha tipo distrutto le orecchie, spero che non l'abbia fatto anche a voi. E detto questo, appunto, abbiamo ascoltato Mrs. Robinson, Lemonades e andiamo verso un brano bellissimo, tra l'altro con un modo di dire inglese, perché cari miei ascoltatori, nostri amici di Bosco, noi ci siamo dilettate nell'inglese per questa playlist, abbiamo deciso di imparare nuovi modi di dire inglesi e uno di quelli che sta per arrivare è singolare, vero Giuliona? Assolutamente sì. Possiamo fare un esempio così per introdurvi: I'm in love with you and all that jazz. Cosa significa and all that jazz? Significa sostanzialmente e tutte, cioè, e robe del genere. Quando noi diciamo, sai, sono andata a fare la spesa, a pagare le bollette, poi imposta, robe del genere, insomma, ecco. E gli inglesi, in maniera, diciamo, decisamente più poetica, lo esprimono proprio così, and all that jazz. Ma chi canta I'm in love with you and all that jazz? Ella Fitzgerald, che è anche detta la mamma del jazz da noi italiani, chiamata Lady Ella, First Lady of Song, che è la più grande interprete jazzista della storia della musica. Era importante inserirla un po' perché dobbiamo darci un tono, cioè anche perché ci sono certe chicche pop che davvero fanno ricredere infatti, i nostri ascoltatori sulla nostra capacità di giudizio. Ma infatti li abbiamo messe alla fine perché ho detto sì, magari, cioè, ascoltano la parte migliore e poi dopo magari alla fine i saluti ci possono anche, cioè, nel senso, però dai, le abbiamo messe non proprio alla fine perché la parte finale è bella e fa capire esattamente perché abbiamo deciso di fare questa puntata. Comunque, tra l'altro lo sai che io per preparare questa puntata, cara la mia Giuliona, ti volevo svelare un segreto. Ho seguito dei video tutorial sui modi di dire inglesi con un tizio inglese che era scocciatissimo e a un certo punto ha spiegato anche all that jazz. L'hai fatto anche tu? No, non l'ho fatto anch'io. Fortunatamente io, avendo la proposta io, c'è da dire che quante ripetizioni ho fatto. Cioè, noi parliamo di parola, dell'utilizzo del linguaggio, ma poi siamo le prime che parlano come Luca Giurato. Comunque, avevo già in mente un po' i titoli e ci ho pensato proprio a scatola chiusa, senza PC. Ero sul divano con un succo all'ace rossa e ci ho pensato così. Però no, io ho dovuto seguire dei tutorial inglesi e tra questi c'era questo video di questo personaggio che appunto spiegava all the jazz e addirittura vuol dire in certi casi she likes cooking, cioè le piace cucinare, fare cioè è comunque inteso verso le cose di casa, da quello che ho capito in generale. È una cosa un po' curiosa, cioè, visto che comunque in realtà il jazz non è così comune, che questo modo di dire si riferisca invece alle cose comuni. Sarebbe bellissimo essere in possesso di un dizionario etimologico della lingua inglese, tuttavia vi spoilero una cosa, costa più di 20.000 euro quello di Oxford. Ah, bene. E sarebbe bellissimo essere in possesso per capire davvero qual è l'etimologia di questi queste appunto espressioni idiomatiche, che per l'appunto, lo ripeto perché è importantissimo capire questo anche per poi capire la difficoltà di leggere un testo in traduzione, che sia una canzone o insomma altro, perché ogni espressione idiomatica, ogni proverbio, ogni modo di dire porta con sé un bagaglio culturale che non può essere traducibile nella lingua appunto compresa, perché non è una lingua, sottende sempre una cultura e la nostra cultura è diversa da quella in cui nasce questa espressione. È un po' come in inglese dire two peas in a pot, non so, sì, se sai cosa significa. Sì, sì, sì. Sono due piselli in un baccello. Ora, se io dico, vuol dire prendere due piccioni con una fava più o meno? No, assolutamente no, significa essere culo e camicia. Ah, ok. Siamo due piselli, solo che ti dico, uè Lona, io e te, due piselli nel baccello, tu mi guardi e dici, senti, guarda che il Paolo Pini è dritto a sinistra, capito? Se invece ti dico, ogni volta che prepariamo Bosco, siamo culo e camicia, allora lì è più comprensibile. Ma lo sai, cara la mia Giuliona, che ogni volta che prepariamo Bosco io mi sento fuori dal blu. Io bellissimo. Mi sento fuori dal blu. Out of the blue è un'espressione idiomatica inglese che viene usata per indicare un evento o un'azione inaspettata sostanzialmente, o comunque fuori dalla norma. E l'altra volta, per esempio, noi abbiamo messo Ashes to Ashes di David Bowie e tra l'altro Ashes to Ashes è cenere alla cenere, è un modo di dire che lui tra l'altro utilizza e quindi di conseguenza torniamo al tema biblico e cavoli e macchi vari, per non dire altro, e all'interno della sua canzone dice appunto Out of the blue, che è un'altra espressione idiomatica, così, pur parler, perché l'ho scoperta questa cosa, quindi io d'ora in poi quando vedrò una cosa inaspettata dirò sono fuori dal blu, sono fuori dal tunnel. Comunque stavo pensando una cosa, Ilaria, Bellissimo. Questa puntata si è trasformata in Magic English. Oddio, ti prego. Allora, mentre ci ascoltiamo il prossimo brano, cara la mia Giuliana, io scarico il jingle di Magic English. Meraviglioso. Allora, beccatevi All That Jazz della grandissima mamma jazz Ella Fitzgerald. And All That Jazz, si è sentito, non si è sentito, stavo annunciando questo brano appena ascoltato, che appunto è Ella Fitzgerald and All That Jazz, perché siamo qui a Bosco, che si veste di Magic English, perché vogliamo farvi imparare tantissimi modi di dire propri della cultura inglese e rispolverarvi quelli dell'italiana. Per esempio, io un detto che non ho mai capito è: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Infatti io ho detto fino a poco tempo fa: me ne vergogno, ma mea culpa, cioè io lo ammetto, perché non posso rovinarvi l'immagine che vi siete fatta di noi, cioè di me soprattutto. Cioè io sono palesemente quella che dice le cose stupide. Ma guarda, a proposito di modi di dire sui gatti, allora devi sapere che ho fatto un periodo a inseguire il mio gatto, perché sono una gattara, ho fatto un periodo a inseguire il mio gatto che mi odia, urlandogli "non dire gatto se non ce l'hai nel sacco" in continuazione, non so per, cioè non, usandolo proprio a sproposito, però lo vedevo correre in giro e questa cosa mi divertiva molto. Però non credo sia questo l'utilizzo proprio preciso di questo proverbio, diciamo, questo modo di dire. Comunque passiamo all'ultimo brano di questa seconda mezz'ora di Bosco. Il brano in questione ve lo recito. Allora, siamo negli anni 80, questo è un grande successo, e questo successo dice: "Another red letter day, so the pound has dropped and children are creating. The other half run away, taking all the cash and leaving you with the lumber." Ora, ho capito tutto. Lo so Giuliana, che tu hai già capito tutto. Sì, sì. Comunque, in questo brano si dice Red Letter Day. Red Letter Day vuol dire un giorno da circoletto rosso, e se vogliamo proprio tradurlo letteralmente significa una giornata da ricordare, sia in positivo sia in negativo, come il caso descritto appunto da questa canzone di Freddie Mercury dei Queen, che si intitola Friends Will Be Friends. E questo diciamo è solo uno dei tanti modi di dire inglesi che possiamo incontrare tranquillamente. Prima abbiamo citato quello appunto di David Bowie con Ashes to Ashes, e d'ora in poi, che poi in realtà tipo è un po' tipo "me la leggo al dito", però nel nostro caso è negativo, capito? Questa "me la leggo al dito", no? In questo caso invece è tipo "ci faccio una specie di fiocchetto per ricordarmela", Red Letter Day, una giornata da lettera rossa, da circoletto rosso appunto. Dimmi Giuliana. E pensando ai Queen mi viene in mente un'altra espressione idiomatica abusata, utilizzata anche da noi italiani, che è "show must go on". Anche sì. O "quando one spoon to live forever", cioè nel senso comunque loro ne hanno fatta di roba che viene utilizzata tranquillamente come idioma, come modo di dire, ma lo usiamo anche noi, capito? "Friends will be friends" nello stesso, cioè proprio il titolo, è vero. Nel suo complesso è effettivamente un modo di dire, però la particolarità di questo brano era proprio Red Letter Day, che io non conoscevo, e quindi d'ora in poi appunto, come vi ho detto, userò sia Out of the Blue, cioè fuori dal blu, oggi sono fuori dal blu, e poi tipo questa è proprio una giornata da circoletto rosso, sicuramente mi andranno a rinchiudere, riapriranno i manicomi solo per me praticamente. Comunque, parlando appunto di "Friends Will Be Friends", l'album è "A Kind of Magic", "It's a Kind of Magic". Mia madre sarà felicissima. "A Kind of Magic", anche lì è un altro modo di dire inglese. Comunque, uscito appunto nel 1986, e quindi niente, io direi che con molta tranquillità, con molto garbo, ce lo andiamo ad ascoltare e poi ci prepariamo per un'altra ora di Bosco. Bosco English, Magic Bosco. 1, 2, 3, 4, every martedì dalle 15 alle 17. You need The Banshees, questa era Green Fingers, tratta appunto da A Kiss in a Dream House del 1982. E perché abbiamo scelto questo modo di dire? Allora, innanzitutto vediamo un attimino il testo. Dice: "Oh, magic in her hands, she could make everything, anything grow. Magic in her hands, she had green fingers." Che in realtà non è niente proprio di meno che il nostro pollice verde. Solo che in questo caso è inteso in un'altra maniera, nel senso che un qualcosa di magico nelle sue mani, dice, riusciva a far germogliare qualsiasi cosa. Un qualcosa di magico nelle sue mani aveva il pollice verde, che però in questo caso ha un'accezione completamente figurativa, ma in realtà Green Fingers appunto corrisponde papale al nostro pollice verde. Però mi piaceva questa idea che almeno un modo di dire ce l'abbiamo uguale noi e gli inglesi, capito? Mi piaceva questa comunanza e quindi l'ho messa lo stesso. Io vedo la tua faccia un po' perplessa. No, pensavo alla solidarietà, alla fratellanza, insomma, questo grande, come si chiama? Un connubio, sì, sono nostri cugini alla fine. Bellissimo, fantastico, meraviglioso, compagni. Compagni, comunque, subito dopo verrà una canzone a me molto cara, di un gruppo a me molto caro, che ha coronato, insomma, le mie pippe mentali da adolescente, da strapazzo, e quindi, cioè... Non solo le tue, cara la mia Giuliona, non solo le tue. Lo so. Perché Wow, dei Verdena, è uno dei miei dischi preferiti, dimmi. Lo so, niente, volevo appunto allacciarmi dando una news ai nostri ascoltatori, news, è martedì... News. Esatto. Sì. È il 13, è martedì, il 13 dovrebbe portare fortuna, infatti lo fa, perché fra ben due giorni avremo una novità. Vogliamo un po' lasciarvi con questa cosa qui, perché io e Ilaria siamo delle inguaribili romantiche e sappiamo che se due sistemi che stanno a contatto dopo tanto tempo insieme dal punto di vista fisico vengono separati, l'uno insomma è ancora influenzato dagli effetti dell'altro e viceversa. Lo stesso vale tra noi e... può vivere se l'altro sopravvive, io continuo a dire. Esatto, questa cosa capita tra di noi e gli Smashing Pumpkins, perché sostanzialmente sulla loro pagina hanno annunciato con una foto che recitava Disarm You With A Smile, che è appunto l'incipit di Disarm, che è una delle canzoni che abbiamo trasmesso un sacco di volte, tra l'altro qua a Bosco, che fa parte di Siamese Dream. E cos'è successo? Sono i siamesi, come diciamo io e Laria, il 15 è partito un countdown e probabilmente il 15 avremo la reunion di Billy Corgan e Co. Come reagire se non con tanti lati? Esatto, piangendo. And what I choose is my voice and my tears and a screaming in my head because I want to see the Smashing Pumpkins already together. E porco cane, io sono impazzita perché sono impazzita. E vabbè, comunque mi viene in mente una poesia di Billy Corgan, Coraggio, poi leggetevi Coraggio, poi leggetevi il testo di Disarm, appunto sempre di Billy Corgan, e unitevi alle lacrime comuni mie e di Giuliana. Comunque, passando appunto a questi problemi che abbiamo con l'adolescenza io e Giuliona, perché abbiamo ancora un palese problema e legame con l'adolescenza, uno di questi nostri palesi legami è appunto quello con Wow dei Verdena. Wow è uno dei miei dischi prefe della band, insieme a Il suicidio del samurai, e niente, in questo album c'è un brano che ha creato non poche pagine su Facebook, perché è Razzi Arpia, Inferno e Fiamme. E in Razzi Arpia, Inferno e Fiamme, diciamo che Alberto De Verdena si diletta nell'inventare delle parole, tra cui un verbo che è ciglierare. Non si sa esattamente che cosa voglia dire. Comunque io sono andata su un noto sito di testi online che è appunto Angolo Testi, famosissimo, quello che ti compare tra i primi trend. Comunque lì addirittura non c'è scritto ciglierò, ma mi accciglierò. Solo che io rimango fedele alla versione originale di ciglierò, perché ormai io l'ho sempre cantata così e preferisco non sapere che cosa voglia dire. Detto questo, comunque noi sappiamo che appunto il modo di comporre dei Verdena non è un modo, diciamo, prettamente testuale, ma diciamo che è più il testo che si appoggia alla musica, e quindi di conseguenza le parole vengono poste sopra la musica e poi ognuno di noi, ma anche lo stesso Alberto, riesce a trovare un significato. Continua ad essere molto strana questa cosa del ciglierò, ma ha creato appunto non poche pagine su Facebook in cui tipo il ciglierò di Alberto, le parole invertate da Alberto, eccetera eccetera eccetera. Generatore automatico dei testi di Verdena. Esatto. Quindi è comunque volente o nolente entrato appunto nella nostra quotidianità. Ma ce l'andiamo ad ascoltare. Razzi Arpia, Inferno e Fiamme dei Verdena. Razzi Ampia, Scampia, vabbè, Razzi Scampia. Razzi. Inferno. La Raggi? Raggi, Scampia, Inferno e Fiamme. Bene, noi abbiamo appena rifatto il testo di Verdina in una veste decisamente più eloquente. Comunque, appunto, Razzi Ampia, Inferno e Fiamme, tratto da Wow dei Verdina, il mitico Ciglierò di Alberto e tante care cose. Ma adesso tocca alla nostra mitica Giuliana, che ha messo in playlist un pezzo che, anche se oggi è martedì, vale comunque, perché alla fine tutti i giorni sono dei lunedì. Sì, diciamo, dipende sempre dall'atteggiamento con cui si decide di affrontarli. Ovviamente. Oggi potremmo dire che è un po' un Blue Tuesday. Blue Tuesday per appunto tutte le incombenze pratiche che dobbiamo sbrigare, ma soprattutto perché ci piace tanto il colore blu, un po' come piace Verdena. No, stiamo parlando di Blue Monday dei New Order, che è un pezzo capitale, io direi, cioè non c'è roccateca che non lo trasmetta a fine serata, no? Mi contraddici? Sì. No, ma figurati, cioè io penso sia una costante della mia esistenza, ovunque vado lo passano. Esattamente, ovunque. Perché sostanzialmente cosa fece i New Order? I New Order erano particolarmente delusi per il fatto che il pubblico dei loro concerti non chiedeva loro mai il bis. Ed erano proprio scazzati per questa cosa, dispiaciuti, fortemente rammaricati. E quindi la canzone era stata concepita come un semplice pattern che gli avrebbe concesso di ritornare sul palco. Avrebbero tanto voluto un out of the blue, un fuori dal blu, e invece no, gli è capitato un Blue Monday. Esattamente, quindi era sostanzialmente una scusa per uscire ancora sul palco, accendere il sintetizzatore e lasciare che la gente ballasse sostanzialmente. È un progetto piuttosto complicato, diciamo che è una pietra miliare anche poi dell'evoluzione. Ricordiamo che i New Order sono la band sostanzialmente Joy Division senza Ian Curtis, capitanata da Peter Hook, che è lo storico bassista, se non sbaglio. E niente, loro si sentivano molto blu, perché blu in inglese, di solito si dice anche You've got a blue moon, cioè hai un diavolo per capello. Hai la luna storta, esatto. Il blu è un colore che per gli inglesi sostanzialmente suggerisce uno stato d'animo piuttosto cupo, contrito e dolente. Quindi, non possono stare su Facebook. Esattamente, bravissima. Loro infatti non hanno pagine ufficiali. Comunque, è un pezzo che dura parecchio, è un pezzo bellissimo, ballatelo se volete, come potete, in macchina, sul divano, tutti in piedi appassionatamente, siate compagni di questo Blue Monday che è un po' Tuesday. Mi raccomando, compagni. Esattamente. Thank you. Ed eccoci qui tornati a Bosco, il programma più selvatico che oggi vi vuole insegnare nuovi modi di dire. Abbiamo appena ascoltato Blue Monday dei New Order e ora invece passiamo sempre, appunto, siamo oltre manica perché ormai abbiamo deciso di trasferirci qui, passiamo a un'altra canzone che ha nel suo titolo un modo di dire piuttosto curioso. Interpol, band alternative indie, insomma, tutta quella roba che puoi mettere nel calderone indie è alternativo. Ed è meravigliosa, una band pazzesca. Hanno appena suonato, tra l'altro, a Milano, mi pare, l'anno scorso, quest'agosto, se non erro, un concerto meraviglioso. Pubblicano il loro primo disco. Quale io non sono andata perché continuate a non averci dato i soldi al nostro IBAN, che vi ricordiamo è fisso sulla pagina di Radio Città Fujiko. Ancora non avete imparato, mannaggia, che noi lo facciamo per voi. Cioè, persone oltre le cose, capito? Persone oltre Bosco. Dateci soldi per andare ai concerti, per favore. Ilaria lo dice... No, Ilaria, tu lo dici assolutamente per me. Infatti stavo anche rinfacciando il fatto che è una delle mie band preferite e voi non mi ci avete portato a questo benedetto concerto. Fatto sta che la quarta traccia di Turn on the Bright Lights, che è il loro primo disco, il disco d'esordio che ha sortito un successo pazzesco per la critica, si intitola PDA. PDA, cosa significa PDA? È un acronimo che va a significare Public Displays of Affection, cioè le limonate in pubblico. Non so, ciccino, trottolino amoroso, dammi un bacino sulla metropolitana, la gente che ti guarda storto, no? Dice queste cose, fatele, prendetevi una camera. Ecco, questa è Public Displays of Affection e l'Interpol lo condannano proprio senza remore. Tu cosa ne pensi del Public Displays of Affection, Ilona? Allora, io penso che se potessi lo farei in privato, ma in pubblico privato. Cioè solo al Decadence potrei farla questa cosa. Capisco, vedi, ora è tutto chiaro. Anch'io ho pensato un po' al Decadence, ma poi mi sono resa conto che tutto quello che prima o poi condanni ti si ritorce contro. Infatti io ero una persona che non amava... Alla fine tutto quello che condanni ti si ritorce sempre contro. Infatti a me non piaceva molto la dimostrazione d'affetto in pubblico. Poi diciamo che ho iniziato ad amarla per necessità, perché quando sei in giro e non vuoi vedere quelle facce brutte perché sei sociopatica, cosa fai? Eviti quello che ti fa male e ti dai al piacere, insomma. Quindi sono un po', ho un approccio un po' relativista. Ho capito, cara la mia Giuliana, va bene. Però allora noi direi che nel frattempo ci pensiamo, elaboriamo una teoria, ok? E mentre lo facciamo ci ascoltiamo PDA degli Interpol. Che ne pensi? Io ci sto. Grande, Giuliana, grande. Grande. Last dinner, I'm raising all around me. in, but I guess I was wrong. Ed eccovi ancora qui in nostra compagnia, questo è Bosco, il programma più tamarro del palinsesto di Radio Città Fusico. Ebbene sì, what goes around comes around, Justin Timberlake, detto anche Giustino Timberlino da me, esatto. Perché ovviamente non so Giustino pronunciare... Timberlake anche. Esatto, non so pronunciare ovviamente il suo cognome. Bene, questa era una canzone bellissima. Mi ricordo ancora il video che passavano in Heavy Rotation su MTV e su All Music. Meraviglioso, con quella gran bella donna di Scarlett Johansson. Mamma mia. E sostanzialmente questo video mette in scena sti due, lei che flirta un po' con tutti in questa festa in macchina, lui ci rimane male, fanno la pace e dopo lui se ne va con un'altra, perché quello che tu fai prima o poi ti ritorna indietro, no? Perché sostanzialmente what goes around comes around significa più o meno la vita è un boomerang, quello che lanci prima o poi ti torna indietro. Questa è un po' l'analogia con la nostra lingua. E volevamo con questa canzone inaugurare l'ultima mezz'ora di Bosco, ma soprattutto la mezz'ora più tamarra, tanto che sembra quasi che io e Lona, insomma, abbiamo deciso di farci serata al Soda Pops. Ma sì, ma in effetti c'è... Allora, come negare il fatto che ho cantato tutta la canzone di Justin Timberlake? Come negare che io ci abbia fatto sopra anche un balletto? Ma soprattutto, come negare che non lo farò anche con la canzone che arriverà tra poco? Perché la prossima canzone, allora, devo essere molto sincera, questa è forse peggio del Soda Pops, perché... Non lo so, cioè diciamo che Lady Gaga ha avuto un periodo della sua vita in cui che è molto discutibile, che però l'ha portata comunque al successo. E uno di questi brani è tratto appunto da The Fame, uno dei praticamente dei suoi primissimi album. È un brano del 2008 e si intitola Poker Face. Poker Face, ovviamente faccia da poker, è praticamente quello che si potrebbe definire forse la faccia da schiaffi, capito? Quella che abbiamo noi. Hai proprio una faccia da schiaffi, capito? E in inglese si dice appunto poker face. E il brano di Lady Gaga è famosissimo appunto per l'utilizzo, diciamo, di questo modo di dire, che è diventato viralissimo, ovviamente, dopo... diciamo l'uscita di questa canzone, compreso ovviamente il balletto di Lady Gaga e quel mamma, anche quello è diventato molto virale, sempre per tornare appunto agli antipodi della nostra puntata, a quel Prince and Colin and Senna Chusolo Alright, qui si è trasformato in un mamma. Vabbè, a parte questo, Giuliana mi guarda un po' perplessa, io la capisco perfettamente, quindi direi di andarci ad ascoltare questo brano e fortunatamente dopo avremo qualcosa di più gradito e più cantabile. Ciao, ok va bene. hai proprio un volto impassibile che non tradisce emozione, è proprio una faccia da schiaffi, capito? Lo so assolutamente, è che volevo dire che mi mancava la dance floor di Bosco, tantissimo. Manca a me, ma secondo me dovremmo istituire la rubrica dance floor, cioè, perché sennò uno, cioè, ce n'è bisogno, perché è inutile che ci giriamo intorno. L'avete cantata tutti, l'avete ballata tutti, avete sculettato tutti, e a noi ci piace questa cosa perché noi siamo fatte così. Sì, siamo fatti così, siamo proprio fatti così, come recita la sigla del Esplorando il corpo umano. Ma a proposito, l'uomo purtroppo quando viene al mondo ha da superare numerosissime difficoltà, e ce lo dice anche la nostra Florence and the Machine, che con la nostra Florencia, la Florencia e le macchine, la Florencia e le macchine ci dice, sostanzialmente ci dà insomma la forza di superare questi dog days, perché ci dice che questi dog days sono finiti. Ma che sono i dog days? I giorni da cani? No cara Elona, no. Sono i giorni asfissianti. Esatto, cioè quei allora giorni pesanti. Gli inglesi e gli americani hanno un po' un problema con i cani, nel senso, c'è l'hot dog, ok? Poi c'è questi dog days, capito? Esatto. E, cioè, non lo so, vorrebbero essere... Non lo so nemmeno io. Comunque, dog days are over. È tratta dall'album Lanced, che è uscito appunto nel 2008, e tra l'altro è stata seguita da You've Got Love, che è appunto questa famosissima cover di cui abbiamo parlato numerose volte qui a Bosco, che è stato sostanzialmente il pezzo che ha lanciato Florence nel mercato discografico. E conosciutissimo. Ma Dog Days Are Over è, oltre ad essere una bellissima canzone, e qui non siamo più tamarri, badate bene, no. È una canzone anche molto preziosa per il suo significato, che noi vogliamo condividere con voi perché siete compagni. Allora ci andiamo ad ascoltare Florencia e la macchina con I giorni da cani sono finiti. Happiness hit the like a train on a track. Florence and the Machine con Dog Days Are Over. Scusami che ti è preceduta, ti ho visto leggermente, stavi per leggere dell'ultima puntata, eri triste per la fine di Bosco di questa puntata di martedì 13. Esatto, mi è stanata, è proprio un Blue Tuesday, cavolo. Comunque, stavo ripensando alla meravigliosa voce di Florence e di come ci abbia accompagnato bene in questa, appunto, in questo fine puntata. Ma non disperatevi, perché se siete così tanto affezionate a queste due combina guai quali Ilona e Giuliana, ci trovate il sabato su InMusic, che è il programma che noi cerchiamo di condurre, insomma, senza infame, senza lode, all'interno di Bad Web Radio, che è una web radio bolognese molto fica, molto ok. E sì, poi ci ritrovate martedì prossimo sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Assolutamente sì. Detto questo, se invece vi siete persi le puntate precedenti di Bosco o di Music, allora nel caso di Bosco ve le potete trovare appunto sulla nostra pagina Facebook. Andate a fare mi piace, per favore, fate mi piace sulla nostra pagina, perché avrete sempre degli aggiornamenti e soprattutto la condivisione delle playlist della puntata e dei podcast. Per quanto riguarda i Music invece, andrete sul nostro sito e ci sono lì tutte le nostre puntate. Lo so che amate passare i pomeriggi con noi, lo sappiamo, e per questo facciamo questo lavoro per voi. Ma non vendiamo sogni, ma solide realtà, no? Esatto. A proposito di modi di dire. Esatto. E persone oltre le cose. Detto questo, Bosco, Giulio e Ilona oltre le canzoni, boh, così a caso. Comunque, ma oltre anche la decenza, suggerirei. Oltre la comunque, assolutamente, ma questo è poco ma sicuro. Comunque, detto questo, andiamo a intrufolarci per l'ultimo brano in un mondo, nel senso che questi artisti hanno creato un vero e proprio modo di concepire un intero mondo, ed è praticamente una denuncia quella che fanno con il loro album Californication. E ovviamente non potevamo non mettere Californication dei Red Hot Chili Peppers. Il brano Californication dei Red Hot non è semplicemente, diciamo, fautore di un nuovo modo di definire assolutamente un'intera generazione, che è la generazione della chirurgia plastica, della pornografia, della decadenza della società occidentale, appunto, della globalizzazione, della globalizzazione, appunto, con Californication. Ma l'intero brano è un trionfo di diciamo, di citazioni per quanto riguarda diciamo alcuni elementi dello Star System. Per esempio, viene citata la lotta tra Star Trek e Star Wars, perché viene citata Alderaan, poi lo spazio senza frontiere, appunto, di Star Trek, poi la rivista Celebrity Skin, viene citato anche Kurt Cobain, viene citato Station to Station di David Bowie. Esatto. Poi ce ne sono un sacco, anche riferimenti, cioè, leggo un riferimento al comico Bill Hicks. Comunque ce ne sono veramente veramente tanti di riferimenti, che appunto vanno a creare quell'immaginario che è quello della Californication. E ovviamente non potevamo non inserirli, perché questo termine è entrato veramente a far parte della cultura occidentale per definire questo tipo di cultura, tipico degli anni 90 sostanzialmente. E, e appunto è entrato appunto nel gergo comune, tant'è che non so se, cioè, penso, non so esattamente in quali anni, ma è nata pure una serie TV che nasce, appunto, che si chiama Californication, che è andata in onda dal 2017 al 2014. Io non l'ho vista, se l'avete vista scriveteci com'è, e noi magari ho visto Cristiano Capuano. Sì, l'hai vista, è proprio lui, è qui! Un saluto a Cristiano. Salutano. Cristiano? Sì, lui ti saluta. No, lui ti saluta, ma tu non lo puoi sentire, quindi, e nemmeno i nostri ascoltatori possono sentirlo, però comunque saluta anche voi, tranquilli. Vabbè, grazie per questa partecipazione improvvisata. Cara la mia Giuliana, io ho finito di parlare di Californication, siamo giunte alla fine di questa puntata di Bosco di martedì 13. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Città Fujiko. Vi ricordiamo che noi andiamo in onda ogni martedì dalle 15 alle 17. Ci trovate, come ha detto Giuliana, appunto su Bad Web Radio il sabato alle 17.30. E per il resto scriveteci e magari ci si fa un aperitivo insieme, ma anche no. non ti allargare l'area, perché io ho appena detto che per evitare di incontrare la gente mi do a public displays of affection, per favore. Cioè, non andiamo così a infangare tutta la mia teoria e la mia tesi. Comunque è stato un piacere stare con voi, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, ci vediamo martedì prossimo, beccatevi Californication e vi darò una chicca in chiusura. È un neologismo che si fonda su una crasi tra la California e la fornicazione, infatti dentro al testo viene citata A Teenage Bride with a Baby Inside, che è un topos in tutte le canzoni di quel periodo dei Red Hot, perché sono rimasti molto traumatizzati dall'aumento delle baby mami, le baby mami, le teenage mom. Quindi insomma, beccatevi questa californicazione e noi ci vediamo martedì prossimo. Un bacio, un bacione. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. And now they're minute.